Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Buona domenica da Stefano Gallarini, parte l'edizione estiva del riposo del guerriero e visto che fa caldo apriremo tante finestre sul mondo della cultura, dei viaggi, della moda, del divertimento, dello spettacolo e prendendo un pochino in prestito alcune delle parole che sono la chiave dell'estate. Oggi prendiamo in prestito la parola ozio, perché d'estate bisogna anche saper oziare, per esempio rilassandoci sul divano per rivedere magari le serie televisive più interessanti oppure leggere libri che ci hanno conquistati, ma anche andare a zonzo per le città in cerca di luoghi che magari non conoscevamo, città dove forse siamo anche obbligati a restare perché non possiamo permetterci le vacanze o perché magari le abbiamo già fatte. Questo e molto altro nel riposo del guerriero, che parte come sempre con una canzone dedicata proprio all'ozio e secondo me questa in questo senso è l'eccellenza. Oh, oh. Sono stanco, tanto stanco. Sono stanco da quando son nato, son stanco, mi voglio sedere. Sono stanco d'essere bianco. La mia faccia voglio tingere di nero. Sono stanco, troppo stanco. Tanto stanco che cado di fianco, sbadiglio e non posso reagire. Sono stanco, molto stanco, ma le mosche non mi lasciano dormire. Voglio un cuscino di piuma, tre materassi di lana. Voglio una bella bambina che canti una nenia per me. Voglio una stanza a tre letti, voglio che stiano tutti zitti. Voglio un tegame di gnocchi e qualcun che mi imbocchi, perché sono stanco, tanto stanco. Sono stanco da quando son nato, son stanco, mi voglio sedere. Sono stanco d'essere bianco, la mia faccia voglio tingere di nero. Stanco, tanto stanco. Sono stanco da quando son nato, son stanco, mi voglio sedere. Sono stanco d'essere bianco, la mia faccia voglio tingere di nero. Oh, oh. Faccia voglio tingere di me. Devo dire che ho scelto proprio Bruno Martino con questa traccia che è Sono stanco e finisce con uno sbadiglio, perché visto che la puntata del riposo del guerriero è in versione estiva, la prima puntata estiva del riposo del guerriero è dedicata proprio all'ozio e siccome non c'è canzone più oziosa di questa, perché viene anche cantata con l'ozio. E per partire ho anche invitato la persona più oziosa che io conosca, non è vero però, sai che bisogna sempre trovare una linea, no? E io l'ho trovata così, eccoci. Sì, insomma, una linea piuttosto sbagliata. Buongiorno. Buongiorno Antonio Stefano Mancinelli, Gallarini, caporedattore di Marie Claire, grazie di essere venuto, la tua estate anche con Riposo del Guerriero. E io sono partito con l'ozio perché quando si parla di che diciamo moda in generale, ma comunque la voglia di mostrarsi, perché d'estate c'è per forza la voglia o la non voglia, devi farlo, devi mostrarti, perché l'estate ti obbliga un po' a spogliarti, no? Sì, no, l'estate sta alla moda come, non so, un attentato può stare alla Casa Bianca, nel senso che c'è un grandissimo rischio di cadere nel cattivo gusto. Per forza. E, perché comunque in qualche modo hai ragione tu, ci si sente legittimati a fare dei delitti estetici che sì, vengono compiuti in nome di un non ben chiaro concetto di libertà legato all'estate, e uno si chiede come mai d'inverno ti vesti in maniera decente ed estate ho una spiegazione. Metti l'infradito anche per la metropolitana. Allora, ho una spiegazione. La spiegazione è questa. Illuminami. No, allora, credo che sia così. D'estate uno si sente in vacanza. Allora dice, perché devo stare a lavorare anche su quello che devo mettere? Cioè, quindi, anche la scelta al mattino dell'abbigliamento, quindi appagliare le cose, capito? E alla fine diventa un lavoro, una sorta di impegno. Quello d'estate uno si sente legittimato a dire, non voglio pensare, quindi evito le calze, sì, ma uno evito non va le scarpe. Uno non va in vacanza da se stesso, cioè se sei stato fino a una questione se sei stato in un certo modo fino a giugno, da luglio non è che improvvisamente diventi uno sciagurato, cosa che invece succede. È una questione semplicemente, secondo me, di libertà, cioè di voglia di non impegnare la mente neanche in quello. Allora oggi con Antonio cercheremo di fare una sorta di carrellata su quello che è un po' il cattivo gusto dell'estate. Sì, perché quello di liberarci da certe tendenze, da certe mode che appunto voi per fortuna non lo vedete, ma di cui Gallerini è un notevole esponente. Insomma. In che senso? No, io invece in realtà mi vesto sempre uguale, cioè non ho mai... Come Paperino a 18 polo. Sai blu che sarebbe 27. Sì, sarebbe comodo, come Einstein, che pare avesse lo stesso vestito, esatto, replicato, come no? Come ecco. Chanel, che aveva 3 taglier neri, e questo non lo sapevo. 5 camicie bianche, ha passato gli ultimi anni della sua vita soltanto indossando quelli, facendo girarle ruotare, ovviamente. Ma guarda sì, che è comodissimo, eh. Io direi che sarebbe un po' l'ideale avere una specie di... come andiamo a scuola da bambini, avere una divisa per l'inverno e una divisa per l'estate. Invece, appunto, per tornare al discorso di prima, non si capisce come mai durante l'estate c'è questa sorta di... come dire, di libertà anche da se stessi, no? Ecco, lasciarsi gusto andare, appunto. Allora, ecco, che devo cosa dire so... che però in questo caso, scusami sì, se ti interrompo Stefano, non vorrei essere giudicato male, ma mi sembra che la crisi e quindi un conseguente ritorno ha un certo tipo di sobrietà, ci abbia fatto molto bene. Ecco, allora vediamo proprio questo. Partiamo dalla crisi, quindi anche la, così, in qualche modo l'obbligo a tirare fuori le cose che erano rimaste nel cassetto magari per tempo, che cosa tirare fuori, così invece magari lasciare ancora nel cassetto, e che cosa evitare d'estate, appunto, per non sembrare troppo oziosi. Giusto? Quindi ma addirittura sai, un po' sciatti. L'ozio, come lei mi insegna, Gallerini, ha in realtà una nobilissima, no? Etimologia, da ozium, poi negozium, quindi c'è tutto, come dire, in realtà una grande letteratura sull'ozio come attività nobile che permette addirittura di pensare e di elaborare nuove idee. E l'oziare, come dire, in questa specie di limbo del buon gusto che diventa un po' pericoloso. Ecco, vediamo allora dove diventa pericoloso, che okay, cosa c'è da evitare tra pochissimo dopo gli aggiornamenti sul traffico. Con Antonio Mancinelli stiamo cercando di capire le tendenze dell'estate, non solo per quanto riguarda la moda, però siccome la puntata di oggi è dedicata all'ozio, partiamo dalle cose che ci fanno sembrare così tanto oziosi da apparire sciatti, dico bene? Ma sì, più che sciatti diciamo direi inadeguati. Inadeguati. No? Allora, tu che cosa assolutamente... eviti, perché hai già citato l'infradito 6 volte, vuol dire che proprio non ti vanno giù, no, c'è qualcosa che non quadra. Soprattutto sui maschi, devo dire, in città è qualcosa che trovo assolutamente così delittuosa, trovo che sia un reato, un crimine contro l'umanità. Allora, se proprio uno dovesse usare l'infradito... E anche i Bermuda, mi spiace, in città, a meno che uno non sia a Rimini o a Ibiza o in qualsiasi altra località che consti di un mare, sì, e quindi un litorale, ecco. Entro i 10 metri dal mare, Bermuda in città, veramente. I pinocchietti sono I pinocchietti sono, non so, potrebbero farci pensare a un ritorno della pena di morte per chi li porta, ma non saremo così cattivi. No. Diciamo che probabilmente è meglio evitarli, anche perché, e questo secondo me sugli uomini fa molto effetto, accorciano la gamba, vi fanno sembrare più bassi. Ecco, quindi se tu dici una cosa quindi, così, esatto, li butteranno automaticamente. Quindi devono. Già i bassi col pinocchietto sembrano ancora più, esatto, bassi. Esatto, quindi pensateci, i bassi col pinocchietto e con l'infradito poi veramente rischiano di essere calpestati da signori che invece, per arrivare alle donne, non si sa per quale motivo tendono a sovravestirsi anche se sono più nude, per cui vediamo ragazze in tacchi altissimi, dorati, che vanno, non so, in spiaggia anche di giorno, dice, anche certo, di giorno, sì. Cariche di gioielli come alberi di Natale, sempre per andare in spiaggia, truccatissime, e quindi con tutto, come dire, un apparato di cose piuttosto ridondante, che magari, come dire, riserverei occasioni diverse, no? Come la sera o le famose seratone in discoteca, che appunto, come dicevamo prima, forse quest'anno sono un pochino meno. Noi adesso stiamo scherzando, ma in realtà ricordiamoci che molte persone non possono andare in vacanza. Ecco, no, infatti, ma va benissimo, nel senso che purtroppo c'è questo, ma comunque d'estate ci si veste, cioè al di là di tutto, non per apparire, semplicemente anche per godersi l'estate e non abbigliarsi troppo perché fa molto caldo. Sì, sì, ci si veste, ci si sveste, e però appunto c'è sempre questa strana concezione che ci sia permesso tutto, no? Per cui anche, non so, io vedo tantissime, anche signore con delle borse che sono sempre della misura sbagliata, per cui vedi questi signori con della specie di trolley sotto braccio per andare a fare. Qual è la misura giusta, allora, scusami, no, per capirci? Quella che teoricamente dovrebbe servire a contenere tutto quello che è necessario per quella cosa che andiamo a fare. Quindi se uno va in spiaggia va benissimo avere una borsa grande, perché ci metterà l'asciugamano, i vari cosmetici, ci servono per prendere il sole. E però la sera andare in giro con una borsa che è addobbata con un carrettino siciliano e ne ha spesso le stesse dimensioni, forse non è il caso, anche perché sinceramente è un po' ingombrare, come dire, gli astanti, da viene in mente delle situazioni al bar o cose del genere, e questo, non so, mi sembra sempre una costante. Cioè trovi che quindi l'estate si esageri un po', si anche nell'altro senso, in tutti e due i sessi. In questo devo dire che le pari opportunità le abbiamo raggiunte, ci si veste in entrambi, sia uomini che donne, in maniera abbastanza fetente. E soprattutto un'altra cosa che trovo veramente spaventosa sono le magliette con le scritte, ecco. Ma scusami, tutte le magliette hanno le scritte ormai, o comunque un logo, qualcosa? No, il logo, come dire, è abbastanza discutibile, no, con queste scritte un po' spiritose, no? Sì. Per cui è F stellina stellina K I'm famous, sono andato alle Hawaii, quella è l'unica cosa più stupida che mi hanno portato, questa stupida t-shirt, no, sei più stupido tu che te la metti, ecco. Quindi non so, quelle sane magliette di una volta che erano bianche, blu, rosse, e magari tu sei ancora per la Fruit of the Loom, allora. Io sono per la Fruit of the Loom, essendo io un figlio, un prodotto ormai marcio degli anni 80, e sostanzialmente la Fruit aveva la sua onestà di maglietta bianca che era semplice, che era semplice. Ancora peggio quelli che si fanno stampare le magliette appositamente con le foto dell'album di famiglia, quindi con i bambini, con l'album, con la torta, e che vanno in giro così. Ma adesso le stampanti a getto d'occhio, ma sai che si fanno a casa tranquillamente, a parte che ci sono i posti dove le fanno, però le fai anche a casa, perché tu stampi la foto su questo foglio che poi stiri sulla maglietta. Gallarini crede che io viva in una caverna. No, volevo capire cosa posso quale maglietta posso regalarti. No, non per porto quello. Magliette, la tragedia è che non porto magliette. Va bene, il logo di Marie Claire. A meno che, insomma, non so, qualche chirurgo che mi ascolta mi rifaccia completamente, credo di avere il torace più brutto della storia, tendo a non portare le magliette, che in effetti oltre i 25 anni, signori, non dovrebbe ecco, essere. Ecco, posso chiederti, ti chiedo due cose. La prima è questa: non è che sia un po' di invidia invece la tua quando vedi appunto... l'infradito sugli uomini? No, sto scherzando. Ho dei piedi bellissimi, fra l'altro anche il 46. No, sto scherzando. Ma invidia, io trovo che tutti stanno molto bene con tutto finché si hanno 20-25 anni. Ecco, cioè, c'è una questione di età, tu dici, alla fine. Che ci sia comunque una libertà. Ma io no, più che invidia direi di considerazione in che posto siamo. Cioè, se come me e come Gallarini siamo costretti a lavorare ad agosto in città, vestirsi come per andare sul bagnasciuga forse mi sembra un po' fuori luogo, così come sembrerebbe fuori luogo andare in giacca e cravatta. La mia è una provocazione, ovviamente, però è vero che comunque sì, sono molto invidioso di quelli che hanno 30 anni meno di me. Ma questo è un altro discorso. Passa, e se io e Gallarini ci siamo goduti gli anni 80, ci siamo molto divertiti. Ma non avevamo gli infradito. Non possiamo neanche lamentarci, ma non avevamo gli infradito, ha ragione Stefano. Una cosa volevo invece chiosare con questo. Chiosare l'ho imparato ieri quando è arrivata la lettera C del dizionario. complimenti. Pensa quando arrivo a lì. A chiudere e vabbè. Dimmi. Senti, no, volevo sapere il trucco in spiaggia. Il trucco nel senso di make-up? Sì, il make-up in spiaggia. Il make-up in spiaggia teoricamente non dovrebbe esserci, ma non per ragioni, come dire, estetiche, nel senso che poi... perché molto banalmente, anzitutto ci sono poi delle ragioni molto serie, può comunque danneggiare la pelle, perché la reazione con questo tipo poi di sole, che non è esattamente benefico, per cui bisogna anzi proteggersi molto, insomma, questo lo dicono anche i miei colleghi e le mie colleghe che si interessano di beauty in maniera più specifica. Ma parliamo anche di trucco maschile, cioè visto che adesso in qualche modo è stata anche sdoganata la tintura, non so se lo sai Stefano, no. Che come dire, ormai gli uomini con i capelli tinti sono sempre di più, sappiate che il sole più l'acqua di mare causa dei danni irreparabili, ma decisamente inguardabili, che forse anche peggio, per cui direi che meno trucco c'è e più si è belli, più si è naturali. E poi si può giocare anche sul fatto che una di mattina sembra il mostro di Loch Ness e la sera si trasforma nella sirenetta di Walt Disney. Quindi magari con una birra diventa esatto. Ancora più bella. Con due diventa Miss, non lo so, Miss Galassia. E quindi trovo che sì, no, l'importante è essere naturali e stare bene. Grazie Antonio Mancinelli, noi ci sentiamo domenica prossima. Grazie a voi. Oziare significa anche passare il tempo per godersi degli spettacoli. Allora volevo farvi una segnalazione, perché c'è la prima edizione di una rassegna di teatro contemporaneo diretta da Shel Shapiro, una rassegna che si chiama Stars a Balestrino. Siamo in provincia di Savona, nel comune appunto di Balestrino, e dal 7 al 12 agosto 2012 ci sarà appunto questa rassegna di teatro contemporaneo, ed è una prima edizione che sicuramente avrà un grande successo, perché i nomi sono tanti, importanti e interessanti. Se volete più informazioni, ovviamente c'è un sito internet che è questo: www.starsabalestrino.it. Il riposo del guerriero. La parola d'ordine del riposo del guerriero di questa domenica è l'ozio, per cui dobbiamo veramente oziare, stare belli, sereni, tranquilli davanti alla TV per qualcuno, io sicuramente no, magari in piscina per altri, ve lo auguro, al mare, in montagna, una camminata, in bici, però quando ci si sdraia o ci si siede, magari all'ombra di un bell'albero, si sta benissimo, già ho l'immagine, con il libro aperto in mano. Vero Alessandra Tedesco? Ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica anche a te e a tutti gli ascoltatori. Beh, il libro in mano è proprio il simbolo dell'ozio pieno, forse un ossimoro, però insomma un modo per riempire il cosiddetto tempo libero. Io leggo tantissimo, per esempio nel fine settimana, il mio momento ideale è mettermi sul divano e leggere tutto il giorno, e poi d'estate ovviamente sul lettino davanti al mare, ecco, all'ombra. Ah, all'ombra, perché dicevo, all'ombra. Io, il sole è impossibile leggere. No, assolutamente non si può fare. Sotto l'ombrellone o sotto, ancora meglio, sotto un albero sarebbe ancora meglio, magari guardando il mare, sentendo il rumore del mare, non la radio, quelle cose orrende, e poi stare così a leggere cose le più disparate possibili. Ecco, quando dicevi la radio, quelle cose orrende, intendevi la radio, quelle che emettono musica esattamente, tutto, mi chiedi la radio 24. Ma vedi il mio cervello, vedi, si vede che siamo in ferie, che siamo ad agosto, perché il mio cervello si è completamente distaccato dall'idea che siamo in radio. Però ho capito cosa intendevi dire. Ascolta, prima di addentrarci nelle letture che tu ti porterai in valigia, o sei già portata, non lo so, perché se stai venendo avanti e indietro già l'hai fatto. Sto facendo un po' di giri. Esatto, e che magari quindi consigliamo anche agli ascoltatori. Volevo chiederti questo: sei anche una lettrice digitale o solo rigorosamente cartacea? Allora, io ho un e-reader, sì. Non dico quale per non fare pubblicità, che gentilmente mi hanno regalato i miei colleghi della radio tanti anni fa, no, non tanti, pochi anni fa, 2 anni fa, quando ho fatto compiuto 40 anni. Quindi abbiamo capito qual è, perché era l'unico 2 anni era fa. Era l'unico esistente. E diciamo che lo uso quando le case editrici mi mandano le bozze da leggere, quindi da questo punto di vista lo uso, però quando esistono già le bozze rilegate o il libro, preferisci la carta? Assolutamente. Ecco, sì. Sono due cose che vivono insieme, una non esclude assolutamente l'altra, ecco, diciamo, ma era una mia curiosità. No, l'unico rischio, ecco, che dico sempre a proposito degli ebook, è purtroppo la pirateria, come come è stato per la musica, potrà accadere anche per i libri. Cioè accade già che ci sono un sacco di siti dove si trovano i libri, si possono scaricare i libri gratis, e questo purtroppo rischia di uccidere l'editoria e gli scrittori. Ma non è detto anche di alimentarla, perché abbiamo ormai si è dimostrato che quando poi, anche scaricata gratuitamente, un film piace o la musica piace, poi normalmente chi l'apprezza compra poi l'originale. Andrebbe sempre fatto, però speriamo che invece serva a far abbassare i costi in generale, ecco. Beh, perché la lettura costa, anche se d'estate sono facilmente trovabili le bancarelle con i reminders, il 50, 60, 70% di sconto, tutto a un euro, e si riesce a leggere bene con pochissimo. Sì, ma poi tantissime case editrici ormai sulla scia di quello che ha fatto la Newton & Compton 2 anni fa, cioè proporre delle collane a 9,90, 9,90 euro, fanno delle proposte economiche soprattutto per l'estate, quindi ovviamente soprattutto un genere più leggero proposto intorno ai 10 euro. Comunque aiutiamo l'editoria sicuramente, e cosa ci consigli? Allora, io vi dico che cosa mi sono messa in valigia. Sì. Alcune cose le ho già lette, alcune no. Io parto da Fabio Genovesi, Versilia Rock City, perché insomma la Versilia direi che è proprio estiva, Forte dei Marmi, direi che siamo proprio in tema vacanziero. Fabio Genovesi è uno scrittore straordinario, qualche anno fa era uscito Esche Vive, sempre per Mondadori, e questo Versilia Rock City è la riproposizione del suo primo romanzo, rimaneggiato, adesso che è uno scrittore insomma un po' più importante, un po' più formato, ed è stato pubblicato da Mondadori. Racconta la vita a Forte dei Marmi in un momento di quiete, cioè durante l'inverno, dove i ragazzi praticamente non sanno assolutamente che fare, quindi fa vedere la Forte dei Marmi in un momento assurdo, come nessuno la potrebbe mai l'altra vedere. Faccia dei luoghi di villeggiatura, perché ce n'è sempre una, no? E poi lo racconta con molta ironia, diciamo, si fa qualche risata, qualcuna anche amara, diciamo così. Poi un altro libro così un po' vacanziero, questo però l'ho già letto, mi è piaciuto un sacco, Romanzo per signora di Pier Sandro Pallavicini, pubblicato da Feltrinelli, perché racconta la storia di un gruppo di anziani che decidono di passare una settimana di vacanza a Nizza, e qua gliene succedono di ogni. La cosa per esempio simpatica, lui racconta delle cose drammatiche, però con il sorriso sulle labbra. Il protagonista, quello principale, ha una malattia piuttosto grave e si deve fare le canne per curarla, e c'è il figlio che gli procura insomma, certo, l'erba da fumare, quindi insomma è simpa, però purtroppo è un tema assolutamente serio, però raccontato da Pallavicini sempre con grande... Beh, affronta un tema attualissimo, fare altre cose, perché è molto se ne simpatico. Parla in continuazione, no? Se è possibile usare la cannabis a scopo terapeutico, assolutamente si usa. Poi c'è uno fra i miei preferiti di scrittori che proprio amo, anche se non amo il genere giallo, thriller e noir, Massimo Carlotto innanzitutto è una persona straordinaria umanamente. È una persona che ha avuto sicuramente una vita difficile, forse ricorderete la vicenda del carcere, poi è stato graziato, insomma ha avuto una vita piuttosto avventurosa, e io trovo una persona umanamente meravigliosa, e scrive dei libri veramente che insomma tolgono il fiato. Tra l'altro quest'ultimo che ha pubblicato si chiama Respiro Corto, è pubblicato da Einaudi, e devo dire che quando io ho letto appunto sull'e-reader, perché mi avevano mandato le bozze, le prime 50 pagine, sono rimasta, come direbbero i ragazzini oggi, flashata. Cioè sembra di stare in mezzo a un film, cioè c'è la steppa russa, sì, arrivano all'improvviso dei terroristi, iniziano a sparare, poi si cambia scena e si arriva a Marsiglia, poi c'è un altro quadro, poi rimani assolutamente coinvolto da tutto quello che accade. È un noir ambientato poi soprattutto a Marsiglia, sulla nuova criminalità, cioè quella fatta dai figli dei vecchi criminali, quindi è la criminalità che gioca con la finanza, che quindi gioca in borsa, sono quei figli dei criminali che sono andati a studiare all'estero, quindi si sono laureati, hanno preso magari un master in economia o in finanza, e Carlotto, che è scrittore serio, un narratore serio ma anche un investigatore, sì, ha passato un certo periodo della sua vita appunto a Marsiglia e ha proprio incontrato i figli di questi boss e ha parlato con loro per capire un po' che meccanismi ci sono. Cioè, come insomma funziona oggi? Sono come cambiate le regole, oggi, ovviamente. Ma infatti si dice sempre che il noir tende un po' a raccontare la vita vera, è un modo per interpretare la realtà. Sì. Infatti i noir sono in genere legati al territorio. ci sono noiristi per esempio nella zona del bolognese, quindi che ambientano i romanzi sempre a Bologna. Carlotto li ambientava nel Triveneto perché lui è di Padova. Stavolta è andato in trasferta a Marsiglia, però ha dovuto conoscere bene il luogo, sì, perché il noir è un modo anche per spiegare la realtà al di là dell'inchiesta giornalistica, in modo romanzato. Sì, però c'è sempre appunto il punto di partenza è sempre la cronaca. Il punto modo, di partenza, no? Per i noiristi in genere è sempre, e per Carlotto in particolare, è sempre una notizia di cronaca che li fa in qualche modo accendere qualcosa nel cervello, e da lì parte c'è solo una tutto. Parte di invenzione, ecco. C'è un mix di invenzione, storie vere. C'è un personaggio in questo libro meraviglioso che è una poliziotta di Marsiglia che insomma le dà, diciamo così, le dà, ed è il personaggio più buono. Qua ci sono dei personaggi veramente crudeli, veramente si vede la criminalità. Cioè, ecco, Carlotto non prende mai posizione, non dà mai un giudizio sul bene e sul male, racconta. Sì. E ti fa sentire. Tra l'altro vi anticipo che Carlotto pubblicherà a marzo un altro libro completamente diverso. Non vi possiamo dire nient'altro, però ci sarà a marzo una bella sorpresa da parte di Carlotto. Non è l'alligatore che ritornerà nel 2014, il suo personaggio seriale, ma ci sarà una cosa particolare. Ha già ricevuto le 50 pagine di bozza? No, però ci siamo parlati, mi ha raccontato, vabbè. Però insomma ho l'obbligo del silenzio. Certo, lo rispetto, andiamo avanti. Allora, altro libro che questo l'ho letto, mi è piaciuto moltissimo, Dove finisce Roma, di Paola Soriga, pubblicato anche questo da Einaudi, ma è assolutamente un caso, non ho fatto caso alle case editrici, non ho fatto la par condicio, ecco. Scrittrice esordiente che racconta la storia di una ragazzina durante la Resistenza, finisce per fare la staffetta partigiana. Ecco, dico subito che a me in genere questi libri storici non piacciono molto. Questo qui mi è piaciuto molto perché lei l'ha saputo raccontare con una certa freschezza. In realtà è la storia di un adolescente. Si sarebbe potuto ambientare nella Resistenza, ma anche in un altro momento storico. Ecco, quindi lo consiglio vivamente. Come opera prima è decisamente notevole. Interessante, sì. Sì, sì, è notevole. Poi, vabbè, ci sono questi tre libricini. Sì, che li vedo. Questi non ho avuto ancora il coraggio di leggerli, ammetto. Allora, sono... dei libricini fatti dall'Accademia del Silenzio. Ho partecipato ad alcuni incontri di questa accademia, insomma sono veramente molto interessanti. Sono delle riflessioni sul silenzio fatte per esempio dal poeta Franco Loi, da Nicoletta Polla Mattiotta e da Duccio Demetrio, e sono dei libricini piccolissimi pubblicati da Mimesis, costano pochissimo, 4,90 euro, e ci danno modo di capire e riflettere in che modo il silenzio può essere utile a noi stessi. Dico che non ho avuto ancora il coraggio di leggerli perché io ho un brutto rapporto col silenzio, lavorando in radio ho sempre bisogno di chiacchiere, di parole, e per me il rumore di sottofondo della città è segno di vita, e invece credo di aver bisogno di recuperare il silenzio, credo che molte persone in vacanza abbiano bisogno di recuperare questa dimensione, quindi attraverso questi piccoli libricini possono, come dire, depurarsi e poi magari iniziare a leggere altri libri. La trovo una forma, come dire, proprio di igiene della mente. Concordo. Hai l'ultimo libro? Ho l'ultimo libro. Allora, io questo lo dedico a Matteo Caccia, che è uno, sì, dei conduttori di Radio 24, quindi lo dichiariamo il conflitto di interesse. Ha pubblicato il suo primo romanzo, Il nostro fuoco è l'unica luce, pubblicato da Mondadori. Ho iniziato a leggerlo, quindi non vi posso... Sono a pagina 59, non vi Vedo posso... Vedo il segnalibro. Esattamente, ho proprio i libri in mano, perché quando parlo di libri li devo avere, insomma, davanti. Ed è la storia di un bambino, di una persona, diciamo, che deve vivere di notte, non di giorno, perché è allergico al sole, e da qui insomma credo inizieranno una serie di cose, perché appunto sono ancora pagina 59, ma insomma Matteo è un grande narratore di storie altrui, ma credo anche di storie proprie. Il titolo mi piace molto, e innanzitutto, quindi già si parte molto bene, e vogliamo rifare l'elenco, sì, velocemente di tutti. Partiamo, sì, dall'ultimo, Il, sì, nostro fuoco è l'unica luce, di Matteo Caccia Mondadori, i tre libretti dell'Accademia del Silenzio pubblicati da Mimesis, Pause, i sensi del silenzio e Il silenzio. Curzio. Dove finisce Roma? Paola Soriga e Einaudi. Ancora un Einaudi, Massimo Carlotto, Respiro corto. Un libro Feltrinelli, Pier Sandro Pallavicini, Romanzo per signora. E infine Versilia Rock City di Fabio Genovesi, Mondadori. Grazie Alessandra, e per la settimana prossima insieme ai libri dovrei mettere anche il fazzoletto. Oddio. Perché parleremo di libri rosa, per cui eccola lì, lo sapevo. Beh, sui libri rosa si ride anche molto. È vero, si sorride, si ride, ma a volte sai, quella lacrimuccia ci vuole, ma perché sì, l'amore un po' deve far sempre piangere, ma, sì, ma anche di felicità. Ci vediamo domenica prossima. A grazie. Domenica prossima. Puntata dedicata ai temi dell'estate, e in questa domenica parliamo dell'ozio. E per Marta Cagnola ozio cosa significa? Buongiorno intanto, ciao. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Per me ozio, proprio per eccellenza, il divano, magari una bibita light per non esagerare, qualcosa da sgranocchiare, telecomando, televisore e serie televisive. Ecco sì, ma tu sei una di quelle che si compra i cofanetti delle serie televisive, così li vedi uno dietro l'altro e non aspetti. Io sono per le maratone. Ecco, sì. Sono per le maratone, fine settimana, intera stagione di una serie TV. E poi alla fine sento la mancanza, non vedo l'ora che arrivi la stagione successiva. Quindi o cofanetto successivo oppure cambi proprio la serie, no? Beh, funziona sì, così. Sì, cambio la serie e poi così l'anno dopo tutte le stagioni nuove. D'estate mi piace particolarmente fare le maratone. Ecco, ma le fai da sola o preferisci con altri? Oppure ti metti proprio lì anche da sola, te ne freghi tanto, sì. Anche da sola, anche perché so che alcune piacciono solo a me e quindi evito di propinarle ad altri. Allora, cominciamo con quelle che piacciono solo a te, così per curiosità mia. Assolutamente, Gossip Girl, mi piacciono le cose da femmine. Infatti i miei amici mi prendono in giro perché dicono che io guardo le cose da femmine. È vero, è bellissimo. Poi Gossip Girl ha già, come si dice in gergo, saltato lo squalo da anni. Il famoso concetto del salto dello squalo che risale, lo abbiamo già raccontato una volta, a Happy Days, quando una serie televisiva diventa assolutamente assurda, non è più credibile, è come quando Fonzi raccontò di avere saltato uno squalo, insomma era una scena assolutamente inverosimile. Quindi Gossip Girl ha già saltato lo squalo, è già assolutamente inverosimile, ma è sempre appassionante. È una versione assolutamente femminuccesca della soap opera americana, piena di vestiti, di lusso, di cose da sognare, di New York che adoro. Però c'è da dire che Gossip Girl, secondo me, è da rivedere questa stagione, in attesa della prossima, che ai noi potrebbe essere l'ultima. Come sempre. Questo è poi uno spauracchio che viene messo facilmente, spesso. Però ho paura di sì. Sai perché? Perché stanno diventando veramente troppo star gli attori, e secondo me stanno tutti per prendere il volo verso il grande schermo, sicuramente la protagonista Blake Lively, quindi insomma ci dobbiamo godere le ultime avventure di questi ricconi dell'Upper East Side newyorkese, ricconi che in realtà ormai sono poco aderenti alla realtà. Quindi quest'anno mi sono appassionata di un'altra serie televisiva che si chiama Two Broke Girls, e quindi già da Gossip Girl a Two Broke Girls, delle due ragazze, che vuol dire, scusa, due, che sono in bancarotta, non hanno più una lira, okay. Una è povera di suo, sì. L'altra è una miliardaria che è andata in disgrazia, beh, e quindi ovvio. Questo è il segno dei tempi. Certo, sì. Una miliardaria è nata in disgrazia perché il padre ha truffato un sacco di gente con delle truffe finanziarie, quindi a suo modo è molto, molto attuale. Devo dire però che è davvero divertente, è esilarante, perché le due ragazze decidono di mettersi in società, e sono davvero l'una molto diversa dall'altra, una più stupida dell'altra ma veramente simpatiche, e decidono di mettersi in società e devono mettere insieme dei soldi per aprire un negozio di cupcake, di tortine, sì, insomma, quelle sì, che vanno di moda adesso anche in Italia. Che producono loro. Una delle due è molto brava. Cucina, e c'è sempre una cosa molto divertente, per la prima volta, allora loro due lavorano in un locale come cameriere, non so se... A me è venuto subito in mente Alice, il vecchio telefilm, che poi era tratto insomma da un film molto famoso. Però il titolare del ristorante è asiatico, c'è il cuoco che è dell'Europa dell'Est, poi a un certo punto arriva la vicina di casa, anche è dell'Europa dell'Est, quindi insomma si capisce anche da queste serie assolutamente divertenti, leggere, che il mondo sta cambiando anche negli Stati Uniti. E quindi anche la relazione fra personaggi, mondi e culture diverse che si incontrano e devono quindi stabilire anche delle nuove regole in qualche modo, no? Infatti il ricco imprenditore adesso è l'asiatico, che però è piccolino e complessato, perché insomma questi ragazzi americani sono più belli, anche lui vorrebbe avere delle fidanzate ma non ci riesce. È veramente veramente divertente Two Broke Girls. Peraltro, se posso dirti, quest'anno ci sono anche delle innovazioni tecnologiche rispetto all'anno scorso. Sì. Ci sono tutti gli on demand, demand, quindi Mediaset Premium ha fatto l'on demand, Sky anche ha il suo servizio on demand, quindi tra Premium e Sky on demand molte cose si possono recuperare anche senza i cofanetti. Sì, in effetti poi ci sono anche molti servizi su internet che permettono appunto di vedere in streaming pagandoli serie televisive e film, quindi c'è la possibilità appunto di non noleggiare più o comprarsi proprio fisicamente, ma pagare soltanto la visione, anche perché adesso c'è la possibilità di navigare velocemente con le schede SIM, quindi anche quando si è in vacanza, anche se uno non ha la connessione di casa, riesce comunque anche da fuori a navigare in velocità e quindi può godersi lo streaming. Io vado pazza per i servizi sull'iPad e così ozio ancora di più e divento ancora più una nerd di serie TV, ma mi diverto davvero tanto. Basta che tu non ti metta a mangiare, ovviamente, no, ma solo a bere rigorosamente senza zucchero. Andiamo avanti. Io cambierei un po' genere. E andrei su un altro genere che io adoro e che è il genere comicità demenziale, ma molto intelligente nonostante sia demenziale. Quindi io consiglierei una visione dei Griffin, serie televisiva animata straordinariamente famosa. Io preferisco famosa. Ancora i Simpson, tu sei ancora un fan dei Simpson? Sì, sarò vecchio, ma mi fanno io ridere sono di più. Io sono affezionata a tutte e due, però devo dirti che certi momenti dei Griffin sono talmente idioti, sì, certo, che veramente per risultano. Me forse è troppo, vedi, quando è troppo per idiota per me non è mai troppo idiota evidentemente. Però devo consigliarlo anche per una ragione. Sì. Il creatore dei Griffin, Seth MacFarlane, che è classe 73, quindi insomma giovane per gli standard italiani, è veramente un bambino, si è dato per la prima volta alla regia cinematografica con un film che ha sbancato il botteghino americano, che si intitola Ted. Uscirà prestissimo anche in Italia. Cosa succede? Ted è un tenerissimo orsacchiotto, però immaginiamo cosa possa passare dalla bocca di questo tenerissimo orsacchiotto creato dal creatore dei Griffin. Già basta vedere il trailer, basta sentire il trailer, ci sono delle cose esilaranti, è ovviamente alquanto sboccato, e quindi bisogna essere appassionati di questo genere di comicità abrasiva e senza peli sulla lingua, se non quelli appunto dell'orsacchiotto. Ecco, c'è anche un videogioco che è Naughty Beer, se non mi sbaglio, dove c'è un orsacchiotto che sembra buonissimo, invece ne combina di tutti i colori. Un po' come perché... coniglio cattivo, mi piacciono tanto perché, queste insomma, cose. Le due cose confliggono e quindi questo fa ridere. Senti, qualcosa invece di maschile a questo punto, hai parlato prima, adesso non per i Griffin, ma i polizieschi ce li mettiamo dentro o no? Ce li mettiamo, evitiamo i soliti NCIS, CSI, che sono sempre buoni, Anche però, se li rivedi che sai già chi è il colpevole, no? Però sei più attento a vedere le altre cose. Te l'ho mai raccontato della mia malattia, la sindrome del tenente Colombo, con la variante la sindrome della signora in giallo. È quella che le rivedi 50 volte sapendo esattamente chi è, no? Mi dimentico il finale. Il mio cervello cancella, rimuove l'assassino, così posso vederli. Nel caso del tenente Colombo rimuove anche la dinamica, sì, perché certo. Ecco, e così li posso rivedere anche milioni di volte. Che bello. Sì, io invece li riguardo pur sapendo già chi è il colpevole e quindi stando attento alle cose che non ho visto all'inizio, hai capito? Cioè, ti perché stupisci come hai fatto a non capire subito, esatto. Era chiarissimo. Era così evidente. Però per non parlare di queste serie americane che appunto le diamo per scontate perché sono veramente inevitabili e imprescindibili, io consiglierei la visione di Luther, perché è una serie televisiva britannica che ha avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti. Ultimamente è buffo perché se si guardano le serie televisive americane c'è un grande successo degli attori britannici e delle attrici. Pare che l'accento britannico sia molto sexy e molto ricercato negli Stati Uniti. In questo caso però è l'intera serie di Luther, ovviamente Luther sta per John Luther, che è il personaggio principale, ispettore dell'omicidi di Londra di grande talento, la cui mente brillante non sempre riesce a proteggerlo dalla forza delle sue passioni. Sono belli questi personaggi che non sono assolutamente monocordi, monotoni, insomma, soprattutto sulla grande serialità. Ma è uno vantaggio... Sherlock Holmes dei giorni nostri, in più qualche o meno modo. Sì, direi di sì. E Idris Elba è stato pluripremiato negli Stati Uniti e alla fine, insomma, gli americani si sono arresi a questa serie inglese di BBC One e l'hanno amata e pluripremiata. Insomma, alla fine anche gli Stati Uniti devono riconoscere. Per una volta non si sono innamorati di una serie e non hanno fatto il remake. L'hanno presa così com'era ed è piaciuta davvero tanto. Anche in questo caso il format è quello detective alla rovescia, cioè quello appunto di sì. Colombo. Tu sai chi è il colpevole, ma ti devi immedesimare nella ricerca del movente, degli elementi della che andranno poi ebbene sì. Fare in modo che il colpevole venga trovato. Grazie Marta, io ti lascio davanti alla tua televisione, davanti alla tua bibita assolutamente light e alla serie che stasera preferisci. Ci sentiamo e ci vediamo la settimana prossima. Alla prossima settimana. Il riposo del guerriero. Seconda parte del riposo del guerriero, versione estiva, e non può mancare anche in questa edizione la nostra glottologa Francesca Dragotto. Ciao Francesca, buongiorno. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Allora, la nostra estate come comincia, almeno l'estate del riposo del guerriero? Comincia con l'estate. Giustamente, che domande, anche tu. Certo, la nostra estate comincia con una riflessione proprio su estate e sulla famiglia di termini che da essa si sono formati. Sì. Se poi ci fosse ancora tempo passerò a considerare i tormentoni dell'estate, ovvero quelle parole che anno dopo anno segnano l'incipienza delle vacanze di molta parte degli italiani. A parte le canzoni, no? Che sono anche quelle i tormentoni dell'estate. Sì, ne riparleremo proprio perché c'è stato un quotidiano che lo scorso anno ha compilato una vera e propria classifica dei tormentoni dal 71 al 2011 e quindi avremo modo di riparlarne. Allora, cominciamo con la nostra estate. Vai. Cominciamo con la nostra estate. Non manca anno in cui telegiornali, giornali, fammi dire, infarciscono i propri servizi di informazioni scontate, quasi quanto, anzi quanto l'influenza o il generale inverno quando si è in inverno. Quindi mi riferisco a quelle parole chiave, e non parole chiavi per cortesia, perché spesso si sente dire al plurale parole chiavi, che con la loro ripetitività sono diventate se stesse parte integrante dell'estate, integrante del significato di estate. Però questa ripetitività di fatto le ha private di significato, quindi le ha in qualche modo logorate. Mi riferisco quindi a termini quali tormentone, che appunto hai citato, spesso associato proprio al nesso dell'estate, a esodo e controesodo, sui quali mi soffermerò abbastanza a lungo, canicola, che nell'italiano antico era canicula, solleone, termometro alle stelle, asfalto che bolle, refrigerio. Tra l'altro il fatto che siano ormai delle strutture consolidate, vuote ma consolidate, è comprovato dall'attivazione automatica nel cervello di chi sente queste parole di una catena di altri elementi. Ad esempio dico refrigerio, scatta immediatamente, ma attenzione che la bibita non sia troppo fredda altrimenti si rischia la congestione. Dico tintarella, ma attenti ai nei, alle cinque caratteristiche che rendono potenzialmente cancerogeno un neo, e attenti alla pelle. Oppure partenza programmata, a cui seguono vacanzieri della domenica, code e così via. Ma come ho detto in questa prima puntata, mi concentrerò sull'estate, in particolar modo appunto sulla parola estate, rimandando alla prossima puntata, nel caso in cui non ci fosse tempo, le considerazioni su alcune delle espressioni che ho appena finito di citare. Sì. Oh, con estate si indica quel periodo, adesso faccio un po' la tecnica, che nell'emisfero boreale è compreso tra il 21 giugno e il 23 settembre, esatto, ovvero sì, tra il solstizio d'estate, termine che in italiano troviamo attestato più o meno dal 300 e che letteralmente rimanda alla permanenza. Stizio, la seconda parte di solstizio, sì, è infatti una forma del verbo stare. Lo stizio, quindi lo stare di cosa? Del sole, che sembra arrestare il proprio movimento sopra l'equatore e quindi restare fermo, di qui la parola. Appunto, è il periodo compreso tra il solstizio d'estate e l'equinozio di autunno. Sì. Esatto, equinozio da un prefisso che è collegato a ecus, ecus di equità, che significa uguale, e nox, notte, perché indica l'uguale durata del giorno e della notte. Ora, sperando di non aver preso un equinozio, faccio la battuta perché c'è questo modo di dire che è un po' desueto, però io lo trovo molto simpatico, significa aver equivocato, quindi è come dire aver preso un granchio. Quindi sperando di non aver preso un equinozio, passo a snocciolare alcune curiosità, a cominciare dall'etimo prossimo. Etimo prossimo, quindi facciamo storia della parola fino ad arrivare il più possibile all'etimo remoto, quindi all'origine, alla radice vera e propria. Allora, estate è la prosecuzione del latino estas, estatis, un sostantivo che troviamo ampiamente diffuso lungo tutto l'arco della latinità e che si ricollega alla parola estus, che significa caldo, calore. La parola è quindi descrittiva, perché, anzi, poiché denomina la stagione. La stagione, che, altra curiosità, è una parola doppione della parola stazione. Ancora una volta dal verbo stare, denomina estate, denomina la stagione traendo spunto dall'elemento che più la caratterizza, il caldo. Vedremo più avanti che la stessa cosa accade anche per la stagione opposta, per l'inverno. Scusami, io apro una parentesi, mi viene in mente una cosa. Estasi ha qualcosa a che fare con estate o arriva da tutt'altra radice? La seconda, che hai detto, con un tormentone che è andato di moda per parecchio tempo. Sì. Sì, quindi non c'entra nulla. Insomma. No, non c'entra nulla. E, c'è una, non dico sovrapposizione, ma un apparentamento fonetico che come e spesso accade. E basta, ecco, certo. Andiamo avanti, quindi proseguiamo con la nostra estate invece, il nostro caldo, diciamo. Al di là del significato letterale con cui la parola ricorre anche all'interno di locuzioni, all'interno di frasi fatte, estate può ricorrere al posto della parola anno per indicare l'età. Lo si fa principalmente quando ci si riferisce a cuccioli di animale o a cuccioli di uomo. Quindi ha trascorso quattro estati, quello è il senso. Esattamente. È anche vero che nella lingua dell'uso lo si trova attestato per le persone molto anziane, quindi è come dire l'espressione, quest'uso si è polarizzato in riferimento o a età molto basse, questo per una eredità dal mondo antico che spiegherò tra poco, oppure proprio perché si vuole mettere in evidenza, come nel caso di primavere, quell'uomo ha 70 primavere, 80 primavere, si vuole mettere in evidenza invece la longevità, una longevità che naturalmente va ridiscussa col passare delle generazioni. Quindi estate può ricorrere il luogo di anno per indicare l'età. È una... Ecco, si usa anche dire ha passato tot stagioni, no? Quattro stagioni, oppure inverni anche si usa molto. Naturalmente, stagioni è un gioco che va dal generico allo specifico, in termine tecnico diciamo dall'iperonimo, che è il nome che sta sopra, che in questo caso sarebbe stagione, ai nomi che stanno sotto, i nomi quindi delle stagioni, estate primavera, inverno, esattamente. Nel mondo antico, allora trago spunto dalla tua osservazione per dire che nel latino più spesso troviamo il riferimento all'inverno. Credo che sia dovuto a ragioni legate alla sopravvivenza, che ovviamente era più difficile in inverno che in estate. Riuscire a sopravvivere. Riuscire a passare un inverno vuol dire essere riusciti a sopravvivere, no? Sì, abbiamo tantissime attestazioni infatti di bimus per indicare chi aveva superato i due anni perché iems è la parola per inverno, abbiamo trimus per chi riusciva a superare i 3 anni e quadrimus per chi superava i 4. Inverno appunto era iems, una parola arcaica che troviamo attestata veramente fin dalle origini in vista di... una parola appunto al cui mantenimento nel corso del tempo non ha giovato la forma fonetica, perché si tratta, lo sentite, insomma, è una parola molto breve, iems, con questa successione prima di due vocali che difficilmente vengono pronunciate e ben scandite, quindi molto probabilmente nel parlato diventavano ie, e poi questo ms finale che è piuttosto... Due vocali, due consonanti insieme. Difficile, insomma. Molto. Quindi, come spesso accade quando le parole sono complesse dal punto di vista della pronuncia, perché presentano dei nessi di difficile articolazione, le parole appunto vengono sostituite. Si perdono. Ed è successo appunto nel caso del nostro iems, che è stato sostituito da hibernum alla base del nostro inverno. Hibernum aggettivo, sottintende tempus, quindi tempo invernale. Poi hibernum si è anche sostantivato andando a fungere al maschile direttamente da inverno. Ora, naturalmente il termine ha una maggiore evidenza fonetica, quindi all'orecchio rimane più facilmente impresso e questo ne ha sancito la sopravvivenza. L'elemento interessante è che, anzi gli elementi interessanti sono due, una probabile origine nell'ambito della nautica e poi il fatto che entrambi, quindi sia iems, che è la parola che è stata scalzata, che hibernus sono collegati ad una radice. Ha una radice che, risalendo ancora più indietro nel tempo, ha un perfetto parallelismo nella parola greca chion, che significava neve. Quindi, esattamente come è accaduto per l'estate, anche nel caso dell'inverno, la denominazione è partita da un tratto che aveva a che fare con l'evidenza, con quello che i sensi percepivano. Chiaro, nel primo caso nell'estate arriva dal caldo e nella seconda invece dalla neve, quindi automaticamente dal freddo. Esatto, sì. Infatti questa radice nelle diverse lingue, io ho citato solo il greco e il latino, ma la troviamo anche in altre, indica o la neve o il freddo. Hai colto perfettamente il punto, quindi si tratta di elementi in qualche modo, dico prototipali, che sembra una brutta parola, ma in realtà intendo dire che sono gli elementi più salienti delle stagioni stesse. E quindi è come dire è come riferirsi ad una cosa non per il nome che ha, ma per come si manifesta o per quello che fa nel caso di un elemento che appunto compie delle azioni. Certo. Allora, questa è la prima parte, la prima puntata dedicata alle parole in questo riposo del guerriero d'estate. Abbiamo cominciato parlando di estate e d'inverno. La settimana prossima invece che cosa ci regalerai? La famiglia dell'estate, perché ci sono tantissimi elementi che nel corso della storia linguistica sono stati utilizzati, spesso messi da parte, a volte recuperati a livello dialettale, altre volte a livello di lessici specialistici, e quindi tra questi ve ne anticipo un paio. Sì. Estatare, estatata, anzi ce ne metto un terzo, estatatura. Ecco, e non è estate, che invece è una marca, una cosa, è un'idea dal punto di vista commerciale di un copywriter. Grazie, esatto. Francesca Dragotto, vi ricordo sempre anche la pagina Facebook del Riposo del Guerriero, non soltanto, ma il sito tuttopoli.com con tutte le indicazioni che Francesca dà ogni settimana e le risposte alle domande che eventualmente le vorrete fare. Ciao Francesca, buona domenica. Ciao, grazie. È una condanna anche ad agosto a quest'ora, è una condanna per me, ma poi vi spiego perché. C'è il nostro gastronauta. Il gastronauta. Perché a me viene una fame pazzesca intorno alle 11:30, mezzogiorno, una roba del genere, la domenica, e poi ti ascolto, Davide, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buongiorno. E ovviamente sono qua che non posso cucinare, io metterei in radio tipo una cucina pronta, così mentre tu parli io spadello e poi ci mangiamo le spaghettate alla fine della trasmissione. Beh, dovresti spadellare tu, perché io non è che ho delle grandi doti da cuoco. No, tu mangi, infatti, io mangio, certo, io, fai cioè, bene. Io mangio, assaggio, poi magari do anche qualche giudizio, ma ti devo raccontare che anche a me succede durante la mia trasmissione alle 11 che quando magari ho in diretta cuochi o d'altro mi prende fame anche a me. Ti viene la voglia proprio, il desiderio, perché le immagini, le cose che ascolti le immagini e sono ovviamente buone per forza finché non le assaggi. Ma però ti faccio anche una seconda confessione, che molte volte magari c'è un argomento che diventa l'argomento principale e mi viene voglia di andare a mangiare quella cosa. Quindi se parlo di spaghetti al pomodoro, quando esco immediatamente vorrei mangiare spaghetti al pomodoro o pizza. Ecco, sono le cose che sicuramente ti attraggono e quindi magari anche il tuo cervello comincia sicuramente a macinare, a elaborare, e quindi succede così. Oggi saltiamo a pie pari il primo, il secondo, l'antipasto, ci buttiamo sul dolce. Beh, quando con me si dice dolce, si dice panettone, specialmente in questo è periodo. È agosto, non è dicembre, ancora una volta. Ma ancora una volta ti dico che purtroppo questa idea è che ha rovinato una battuta. Ma è tua l'idea? È mia l'idea. È partita 7 anni fa proprio da Radio 24 e dal Sole 24 Ore. Ma ti dico che ho rovinato una cosa ai giornalisti, giornalisti sportivi. Perché degli allenatori dicevano non arriveranno a mangiare il panettone perché è Natale, ma certo. Ora che c'è il panettone d'estate, sono come fregati, sono fregati subito all'inizio. Cominceranno a mangiare il panettone, modo per iniziare dopo. Anche quasi. Ecco. Ma guarda, quest'anno sta succedendo, come posso dire, una rivoluzione vera e propria, perché in parecchie spiagge italiane e luoghi, diciamo, battuti dai turisti importanti, avverranno degli incontri, avverranno degli eventi che non sono la sagra del panettone, perché quella c'è già in provincia di Rieti da 25 anni, chiusa la parentesi, quindi quando si dice che è una cosa recente il panettone. Ma che si fa quando, scusa, la sagra del panettone? Che date ha? È questo periodo qui? Il 15 di agosto. Ah, 15 di agosto, sì. A Borbona. No, Barbona, provincia di Rieti, c'è un laghetto, e lì da 20 anni c'è questa sagra del panettone dove, diciamo, viene distribuito fette di panettone a go-go in questo paesino. Ecco, so che la domanda è scema, però volevo precisarlo. Il panettone estivo è prodotto in estate, non è quello che abbiamo avanzato a dicembre, a gennaio? Per carità, appunto. Per carità. No, sai, perché ci sono quelle cose, no, tipo, per carità. Il panettone d'estate è fatto prevalentemente da artigiani. Sì. Il che vuol dire che quel panettone che mangiano è freschissimo. È freschissimo. freschissimo, anche perché la durata del panettone, dei panettoni artigianali è massimo di intorno ai 30 giorni e quindi non potrebbe essere altrimenti, a meno che non si metta nel freezer e poi si mantenga. Però è panettone sicuramente molto, ma molto. Ecco, no, volevo precisare solo perché magari uno pensa, ah ecco, tirano fuori la questione dell'agosto perché hanno le rimanenze del dicembre, quindi devono smaltirlo in qualche modo, ma è una cretinata. Cioè, questo perché, succede in altri periodi dell'anno. Forse, questo succede in altri periodi dell'anno. Senti, non è che la temperatura anche un po' più umida d'estate aiuti a tenere la fragranza del panettone? Sì, aiuta, perché il discorso del burro, ovviamente nel panettone c'è del burro, chiaramente, di conseguenza con la temperatura un po' più alta non c'è bisogno di mettere il panettone sul termosifone, sì, come si fa d'inverno, né di metterlo nel forno, e quindi sicuramente aiuta, poi secondo me aiuta perché il caldo chiama gelato. E quindi abbinare il panettone Tu lo al gelato, no, io lo faccio regolarmente. O con una chantilly lì bella fresca, meglio il gelato. Io più col gelato, e addirittura ora mi è stata data un'idea di col sorbetto. Addirittura col sorbetto è ancora meglio. Al limone? La mela verde? Perché adesso è di moda il sorbetto alla mela verde. Beh, io ti dico una cosa così, invece, che lo farei con il sorbetto al tè verde. Al tè verde, oppure col gelato al tè verde. Sì. Oppure anche con un gelato, magari. A me piace molto, l'ho provato con lo yogurt, gelato allo yogurt. Non mi dispiace. Però io sono per il panettone tradizionale mangiato, divorato con le mani, proprio preso con le mani, non usato il coltello. Ma anche strappato, tu vuoi strappato, dire? Strappato, proprio strappato. Strappato proprio dalla parte alta, che è la migliore, no? Agli altri poi gli lasci il resto. Certo, tanto. E poi deve essere un panettone di 3 kg, ovviamente. Non può essere un panettone più leggero, perché 3 kg... Ma anzi, ora ho scoperto che c'è un produttore in Puglia, a Grottaglie, che fa il panettone da 10 kg, e io spero nei prossimi giorni di poterlo avere, ovviamente di radunare tanti amici il giorno di Ferragosto, di poterlo così festeggiare il Ferragosto con il panettone. Poi magari se ci sono degli amici mantovani che portano il cotechino, tanto meglio, perché così facciamo cotechino e panettone, trasferiamo il Natale nel Ferragosto. Senti, secondo te un po' perché si è questa tradizione, cioè questa tua idea che hai lanciato appunto 7 anni fa ha cominciato a prendere piede ed è diventata interessante? Cos'è che ha scatenato, secondo te, anche la voglia da parte dei pasticceri di mettersi all'opera in questo senso? Panettone buono. Io credo che sia il miglior dolce italiano. E non è più un fatto milanese. Ormai il panettone è radicato in tutte le pasticcerie dove ci sono dei bravi, diciamo, pasticceri che fanno lievitazione e usano lievito madre. Sì. Quindi ormai si è trasferito. Il panettone è buono, fragrante. Io credo che a pochi... Sì, c'è qualcuno che dice io non amo la frutta candita, altri dicono che non mangiano le uvette. Però, insomma, sicuramente io lo ritengo un dolce completo. E forse così, spingendo, questa idea è emersa. Però ti devo raccontare che già il primo anno che io ho lanciato questa idea mi sono arrivate moltissime email, segnalazioni di personaggi che già da anni cercavano il panettone d'estate. Lo cercavano. E addirittura c'è anche un pasticcere, faccio nome e cognome perché è bravissimo, di Busto Arsizio, la pasticceria Oscar, che da sempre dice che vende più panettone d'estate che ad agosto, perché quindi forse lo propone. E io ho ricevuto lettere di gente che diceva che a Natale tagliava il panettone, lo metteva nella carta, diciamo, ad hoc, e lo metteva nel freezer per potercelo mangiare d'estate. Quindi non ti dico, poi il panettone si può mangiare al mattino col caffè latte, si può mangiare, anzi, buonissimo, intinto nel caffè latte, si può mangiare a mezzogiorno, si può mangiare la notte quando uno torna. E ora ho saputo addirittura che c'è un pasticcere che sta tentando di fare un abbinamento col formaggio. Però io dico che si possono fare degli abbinamenti col salato, e devo dire che il più straordinario è panettone foie gras. Sì. Secondo me panettone foie gras è perfetto. E poi ce n'è uno che è estremo, un abbinamento estremo, che prego i radioascoltatori, non balzate sulla sedia, con la mortadella. Bene, una fetta di panettone sopra con una fetta di mortadella, poi ora tutti direte, non ridete tutti, ma se la mangiate poi mi farete sapere, e non è così da inorridire come si può pensare. Eventualmente bendatevi, perché a volte è l'associazione visiva che ti dà fastidio, non quella del gusto, no? Quindi è meglio chiudere gli occhi, si assaggia e ci si fa trasportare solo dal gusto. A proposito di bendato, c'è una signora, una ragazza, beh ormai signora più che ragazza, la quale fa un'esibizione sulle polpette. E lei fa le polpette con una bendatura diciamo cieca, quindi, perché sostiene che la polpetta bisogna sentirla nelle mani, bisogna sentire il profumo e l'odore e così si rende il massimo. Lei fa questa esibizione a tempo di musica straordinaria, si chiama De Leonardis e devo dire che l'ho vista fare, io ero abbastanza incredulo. La tua esibizione è stata quella di assaggiarle, poi, ovviamente, come cioè, sempre, io giustamente... sono sempre dall'altra parte. Bravo. Sono sempre dall'altra Te parte, avrei seguito volentieri. Non rischio mai. No, su qualche piatto posso rischiare comunque. Senti, visto che siamo, abbiamo ancora qualche minuto, facciamo un abbinamento anche sul cosa bere, visto che è estate, quindi magari le cose cambiano, se io berrei prosecco su ogni cosa, per cui vedi tu. Ma guarda, su questo io credo d'estate. Che il moscato d'Asti sia forse servito freddo, sia diciamo un abbinamento così dolce. Sono le bollicine, la fragranza, poi servito freddo secondo me va molto bene, perché c'è una regola, mai abbinare diciamo la medesima cosa, salato con salato. Sì, dolce lo dici con... spesso ma questo. Ma sul dolce bisogna, cioè, si trasgredisce, perché secondo me dolce con dolce non è un abbinamento da buttare, però se ne possono cercare altri. Ad esempio, ci sono stati nel passato alcuni produttori di panettone che hanno fatto il panettone alla birra. C'è forse uno dei più grandi, diciamo, chiamiamolo mastri birrai italiani, che è la marchia Baladin della birra, e lui si chiama Teo. Teo è il, diciamo, maestro di questo, e lui anni fa faceva degli abbinamenti con le birre. Oggi ci sono delle birre che permettono anche l'abbinamento con il panettone, e lo ritengo un abbinamento molto ma molto corretto. Allora pongo una sfida. Hai citato il panettone con la mortadella. Con cosa lo berresti? Perché qui forse il dolce è più difficile, no? Ma perché non c'è... direi, perché ci sono dei lambruschi che secondo me possono andare, quindi trovare un lambrusco adatto a provare, forse una graspa rossa si può tentare di poterlo fare. Rigorosamente fresca, eh? Sì, io il lambrusco lo bevo sempre rigorosamente fresco, è un grande vino dell'estate, ma magari di vini ne parleremo. Come no, grazie Davide Paolini, ci sentiamo la settimana prossima, buona domenica. E nella versione estiva del riposo del guerriero è il momento di parlare di viaggi, visto che questo è il periodo, ovviamente. Lo facciamo in questo momento con Giuseppe Ortolano, giornalista, turistico, vagabondo anche, nel senso che ha girato tutto il mondo. Giuseppe, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a tutti. Dopo aver girato tutto il mondo, ha pubblicato un libro intitolato 1001 cose da vedere in Italia almeno una volta nella vita. Mi incuriosisce il fatto che questa linea di volumi di Newton Compton normalmente come numero abbia scelto il 101, e invece parlando dell'Italia dobbiamo fare 1001, perché sono talmente tante le cose da non perdere nel nostro paese che 101 non sarebbero abbastanza, giusto? Sì. No, anche perché veramente è un paese talmente ricco di luoghi, di beni culturali, di natura, che già 1001 sono pochi. Abbiamo dovuto fare una selezione durissima. Immagino. Allora, vediamone qualcuno di questi 1001. Poi, se siete curiosi, c'è il volume appunto di Ortolano per avere l'elenco di tutti questi. Da dove partiamo? Ma partiamo dal mare, visto che siamo in agosto, quindi ci piace il mare. E partiamo dall'Abruzzo. Dalla costa dei Trabocchi, è un luogo che non va perso, si trova intorno a Vasto, sulla costa adriatica dell'Abruzzo, e se uno percorre, lascia perdere l'autostrada, se ne va tranquillamente sulla strada statale, vede in mezzo al mare, a qualche centinaio di metri dalla riva, delle strane costruzioni in legno, praticamente sulle palafitte. Sono i Trabocchi. Cosa sono i Trabocchi? Sono sostanzialmente un antico sistema nato nel 600 per pescare non sapendo andare per mare, non sapendo navigare. Ne sono rimasti alcuni che adesso ospitano delle specie di ristorantini in trattorie, c'è anche una bella festa gestita da Slow Food, e dove si può mangiare del pesce appena pescato proprio, godendo del piacere del mare e della bellezza, ad esempio, di Vasto, che ha un centro storico stupendo. Furono degli ebrei che arrivavano dalla Francia, cacciati dalla Francia, che arrivarono lì e si dovettero ingegnare per campare sostanzialmente. Non sapevano pescare, non sapevano andare in barca e si inventarono i Trabocchi. Gabriele D'Annunzio li cita in una sua poesia come dei mostri preistorici in mezzo al mare. Stupendo, direi. Bene, io che tra l'altro per metà sono abruzzese non ne conoscevo l'esistenza, per cui ecco, come sempre anche la propria terra o comunque le terre vicine alla propria non si conoscono mai abbastanza. Adesso invece magari ci spostiamo un po' più a nord, andiamo in collina, sì. Andiamo in Emilia, nella provincia di Parma, in una delle valli laterali praticamente, la Val Ceno, e incontriamo la fortezza di Bardi. La fortezza di Bardi è una splendida fortezza, molto poco conosciuta, praticamente è sospesa su uno sperone sul torrente Ceno. E ovviamente come tutti i castelli degni di nota è abitato da qualche fantasma dispettoso, ma c'è un gruppo di ragazzi, una cooperativa locale molto intraprendente che organizza animazioni sia per adulti che per bambini, legati un po' alla storia del castello e legati un po' al giocare alla presenza del fantasma. Ma ha un'altra particolarità questo castello, ha un museo del bracconaggio. Certo, il bracconaggio è una cosa brutta, però non dobbiamo dimenticare che nelle nostre montagne, nelle zone di caccia, è stato praticato per secoli. Sì. E quindi c'è questo museo del bracconaggio che senza nessuno sconto, però racconta un po' la storia del bracconaggio, racconta un po' le tecniche e racconta anche un po' come è stato sconfitto dalla crescita della coscienza civile e anche dall'intervento delle autorità. Ecco, allora siamo stati al mare, siamo stati in collina, dove andiamo adesso? In montagna, immagino, o sul lago? Dai, sì, andiamo montagna, in montagna, ce ne andiamo praticamente alle pendici del Monte Rosa, sì, in Piemonte, nella zona di Verbania Cusi-Ossola, e ce ne andiamo a visitare una miniera d'oro. La miniera d'oro della Guglia a Macugnaga. Il Monte Rosa, forse pochi lo sanno, è una montagna nelle cui viscere c'è un mucchio di oro, c'è molto oro. Veniva estratto fino agli anni 40, ancora adesso c'è, non si estrae più perché conviene importarlo da Sudafrica o da altri paesi. Questa miniera, dopo anni di abbandono, è stata riaperta, un chilometro di galleria, e si visita in compagnia degli ex minatori. Si portano all'interno della galleria, fanno un po' rivivere le antiche tecniche di estrazione dell'oro e il fascino della miniera. Bella esperienza sia per grandi che per bambini. Ripetiamo dove siamo? È a Macugnaga, praticamente in Piemonte, nella provincia di Verbania Cusi-Ossola, alle pendici del Monte Rosa. Si chiama la miniera d'oro della Guglia. Giuseppe, davanti c'è, sì, anche una bel museo Walser. Ah, ecco, sì, che è un insediamento, no? Che troviamo anche in Val d'Aosta, se non mi sbaglio. Esatto, era una popolazione di origine tedesca che arrivò nelle nostre valli, molto probabilmente in cerca di luoghi dove poter praticare agricoltura, e mantengono le loro abitudini, la loro lingua, che è una lingua di origine tedesca. Sì, c'è anche un festival proprio all'inizio della Val d'Aosta, proprio in questo periodo, fra l'altro, dell'anno. Grazie Giuseppe Ortolano, vi ricordo il libro 1001 cose da vedere in Italia almeno una volta nella vita. Ne abbiamo conosciute tre, ce ne sono altre 998 da scoprire. Grazie ancora Giuseppe. Niente, ciao a tutti, buongiorno a tutti. E andiamo avanti invece, perché è il momento di scoprire qualcosa che riguarda una città, insomma, da vedere, da guardare. È che si guardano sempre le solite cose da turisti, invece quando si va a Parigi ovviamente c'è molto di più di quello che pensiamo. 101 cose da fare a Parigi almeno una volta nella vita. Sabina Ciminari, buona domenica. Buona domenica a lei. E la Torre Eiffel, certo, la vediamo una volta, poi andiamo da qualche altra parte a scoprire altri luoghi. Parla comunque, senza trascurarla. Ah, no, io dico, ci sono assolutamente, sì, dobbiamo vederla e salirci anche sopra, indubbiamente. Però, voglio dire, Parigi non è solo questo. Ecco. No, assolutamente, non è solo questo, ed anzi a volte i percorsi più belli sono quelli che si fanno vicino a quelli più battuti, no? Scoprire, sì, un po' curiosità dietro le trappole da turisti, anche, perché no? Allora, che cosa scopriamo di Parigi? Che cosa scopriamo? Comincerei sottoterra, visto che si sta un po' più freschi in estate, e a rischio di sembrare un po' necrofile ci sono gli ossari. Si parte dal Don Ferro Show a 20 metri sottoterra, siamo sulla Rive Gauche, ci sono le catacombe che però non hanno niente a che vedere con le nostre catacombe, sono veri e propri ossari, è lì che sono stati riversati i cimiteri alla fine del Settecento e sono 6 milioni di parigini di ossa in questa città anche molto laica, con richiami quindi poco religiosi ma frasi ogni tanto di poeti, di scrittori che accompagnano il percorso per 800 metri di gallerie e quindi fino a risalire dopo questo percorso sotterraneo un po' parallelo a quello della metropolitana, e si risale al sole quasi con tirando un sospiro di sollievo, perché no? Siamo riusciti a emergere, ecco, diciamo, esatto. In qualche modo. Bene, poi cosa, visto che la città dell'amore è qualcosa riguardo l'amore, ce lo farai visitare per forza, Sabina, immagino. Ah beh sì, allora la città dell'amore è una vera trappola per innamorati sì. e trappola anche per trovare l'amore. In estate in particolare i parigini si scaldano molto, quindi io consiglio di fare, perché poi il volume è anche 101 cose da fare, sì, più che da scoprire, di andarsene a ballare il tango o la salsa lungo la Senna, lungo la Senna. Questo si fa praticamente tutta l'estate, è alla base ai piedi dell'istituto del mondo arabo, c'è uno square, un giardino all'aperto, Tino Rossi, dove si suona, vengono dati corsi di danza, quindi è un'occasione anche per conoscere, abbracciarsi all'innamorato e poi perché no fare quello che è lo sport quasi preferito dei parigini in estate, che è il picnic, cioè munirsi di una buona bottiglia di vino, una baguette, un po' di formaggio e improvvisare scene sul lungo Senna, magari appunto guardando la Tour Eiffel o altri scorci, sempre col sottofondo di musica che si trova un po' ovunque lungo la Senna in questo periodo, ed è insomma molto romantico. Se poi proprio si vuole esagerare, ci sono gli hotel a tema, c'è cioè l'hotel Amour proprio e l'hotel dedicati, ci sono zone, ma è proprio la capitale, quindi qui veramente i luoghi dedicati all'amore potrebbero essere non 101, 202 e passa. Ecco, senti Sabina, se qualcuno dovesse andare per la prima volta a Parigi, no? A parte vedere i posti canonici, cos'è che secondo te non si dovrebbe assolutamente perdere? Allora, è la prima volta e abbiamo a disposizione poco tempo, immagino. Sì? Sì, abbiamo. Quindi io farei un giro sicuramente nel Marais, un quartiere del centro, sulla Rive Droite, è piccolo ma al tempo stesso ricco di tutto, ricco di storia, ricco anche di musei. Ecco, questa per esempio è una cosa da non perdere secondo me anche per chi viene per la prima volta. Certo c'è il Louvre, certo c'è il d'Orsay, sì. A Parigi musei noti, ma se si sta per poco si rischia di passare metà della vacanza lì in fila. Invece ci sono musei come per esempio il Carnavalet al centro, appunto nel cuore del Mareddo, che è proprio una miniera per scoprire la storia della città, poi si passeggia per le vie un po' del quartiere ebraico, si mangia, si degustano falafel, si soggiorna un po' nei parchi, nei giardini, nelle piccole piazze, si sbuca fino al Pompidou, è una passeggiata a piedi, quindi là si vede un po' invece dalla storia antica di Parigi si vede un po' la Parigi come è cambiata in questi ultimi 40 anni, e questo mi sembra un percorso irrinunciabile, oltre a un'occhiata alla Tour Eiffel, certo. Certo, sicuramente, però appunto per una visita a Parigi magari un po' fuori dai canoni e vedere qualcosa di nuovo, a parte le cose che vanno assolutamente viste, Sabina Ciminari ci ha detto cosa fare, ma ce ne sono di cose da fare, ce ne sono molte di più. 101 cose da fare a Parigi, almeno una volta nella vita. Grazie, buona domenica. Grazie a lei, buona domenica. E per chiudere la puntata estiva del Riposo del Guerriero in questa versione così calda, cerchiamo di scaldarvi gli animi insieme al nostro astrologo preferito, il nostro capitano Capitani. Ciao Antonio, ben trovato, ciao. Anche a te. Allora, buona domenica innanzitutto. Buona domenica. Allora, siccome questo è un periodo, lo sappiamo, saremo banali, ma vogliamo essere per forza, ma anche perché è difficile non essere banali in questo periodo dell'anno. Fa caldo, si pensa solo all'amore e basta. E non solo all'amore. Chi è che ha voglia di pensare al lavoro adesso? No, questo non è certo il periodo. Questo è il periodo canonicamente riservato ai piaceri della vita, compresi quelli amorosi e carnali. Anche a me dispiace, ovviamente, per le persone che lo stanno cercando, magari l'hanno perso e sono cose da affrontare serissime. Però è vero che ad agosto spesso si ragiona dicendo dai, aspettiamo settembre. È no? Tanto ecco, è tutto perché... fermo, tanto non c'è che nessuno. Che poi forse non è vero, però è una questione proprio mentale. È vero. Perché abbiamo comunque voglia di fermarci, sì, un attimo. È vero. Allora cosa raccontiamo su oggi? Su che cosa mi interroghi? Dimmi tu, vai. parliamo d'amore, vediamo come butta per i 12 segni nel mese di agosto, che si profila forse un po' a rischio battaglie per l'Ariete. Marte in opposizione, l'Ariete è poco conciliante, poco disponibile ai compromessi e ogni pretesto può essere motivo di zuffa. Certo, poi c'è anche Venere contraria, quindi Venere determina un po' un calo anche del modo di fare dell'eleganza, del modo di fare dell'Ariete. Già l'Ariete non è che sia questo campione di bon ton, insomma, è sempre più vicino all'elettrauto di Palermo nei modi di fare. Basta fare come dice lui, va tutto bene. Ecco. Però è simpatico perché c'è un bel Mercurio che lo aiuta, favorisce la vita di relazione, i viaggi, gli spostamenti. Diciamo che là dove l'amore, la fornicazione dovessero essere un po' avari di favori, c'è però la sfera delle amicizie, i contatti sociali, le conoscenze che suppliscono. Quindi Ariete, voi dovete semplicemente conoscere adesso e poi magari porterete a casa dopo, esatto, nei prossimi mesi. Il Toro, sì, che è schizzato. Mercurio è contrario e i nervi saltano. Soprattutto i Toro di aprile hanno un diavolo per capello anche se sono calvi. Però c'è Venere che è in orbita mielosa e questa Venere forse... Li fa ingrassare, altro che no. Ma relativamente, diciamo che è una Venere che li rende più cucchevoli e fornichevoli, nel senso che il fascino aumenta, è l'eloquio del Toro che colpisce e quindi secondo me il Toro va a segno, anche se è un po' schizzato e la gente lo metterebbe volentieri nel microonde, però alla fine poi porta a casa delle gran belle conquiste e in vacanza si rigenera bene. Ecco, se volete conquistare un Toro a questo punto invitatelo a cena, credo, sì, che possa funzionare. Pasteggerete, no? Con le sue carni. Gemelli. I Gemelli, che sono un po' i fortunelli di questo periodo dell'anno. Giove è entrato nel segno, Giove è il pianeta della grande fortuna, delle belle cose che capitano ogni 12 anni, perché Giove entra in un segno e ci rimane per un anno, ma ogni 12 quindi anni. Quindi vale la pena fermarsi all'autogrill e prendere il Gratta e Vinci, secondo te? Se io fossi un Gemelli lo farei. Okay. Il Gemelli è un po' una sorta di piccolo re Mida, perché qualunque cosa toccherà la trasformerà in oro. Quindi è un'estate, a mio parere, che rimarrà impressa nella memoria del Gemelli, anche perché c'è Marte, che è il pianeta del vigore fisico, della forza. Quindi chi vuole praticare sport, chi si vuol dedicare anche alla nobile arte della copula, questo Marte, che è il pianeta, senti come lo diciamo in maniera, certo. Questo Marte è proprio il pianeta del piacere carnale, quindi io credo che non sarà l'estate del grandissimo amore, almeno per una parte dell'estate, però sarà del divertimento amorevole, chiamiamolo così. Sì, sì. Il Cancro, che ad agosto ospita Venere, ed è una mano santa, questi poveri Cancro che hanno avuto legnate e in parte le hanno ancora da Saturno, da Urano, da Plutone. Questa Venere consiglia al Cancro di ritirarsi in un buon ritiro, di preferire più le vacanze tutte relax e anche un po' minimal, piuttosto che gettarsi nella caciara agostana. E secondo me il Cancro ritorna a casa poi alla fine di agosto rinnovato, bello, lucido, splendido, splendente per un autunno di successi a rotta di collo. Che meraviglia, ecco. Il Leone, male, che sì, ruggisce bene perché Marte è un pianeta che vivacizza la vita sociale, forse porta qualche piccolo impiccio, intralcio imprevisto nel corso di viaggi e spostamenti, però Giove favorisce la riuscita di ogni progetto, ci sono amicizie, sponsor, clienti, nel caso in cui poi il Leone dovesse lavorare, però ci sono appunto supporti gioviani che rendono questa estate particolarmente vivace, briosa, piena di opportunità per brillare di luce propria. E Urano porta anche delle piccole grandi svolte che, insomma, si potranno concretizzare ancora di più poi. E quando a un leone parliamo di luce propria può essere solo felice, no? Altro che... lui risplende e tutti devono girare attorno, cioè tributargli il lado remus. Sono i suoi riflettori. La Vergine che forse esce un po' dal guscio, questa bella Venere che facilita la vita di relazioni, l'allacciamento di amicizie nuove, e forse da un'amicizia potrebbe anche scaturire una bella passione a luce rossa, oppure è un amico o un'amica che potrebbe presentare la Vergine persone, come dire, degne di attenzione e di nota dal punto di vista amoroso e erotico. Quindi chi è solo potrebbe accoppiarsi, diciamo. Potrebbe partire da solo e ritornare anche in due. La Vergine faccia vita di società, si metta al traino degli amici, soprattutto perché è bella. La Vergine quest'estate cucca, quest'estate ambita e anelata, basta che non scoppi con i soliti sboti di acido zitellico e le cose andranno molto bene. Semmai bevetevi un così un rosolio, un prosecco, ecco, che vi mette a posto. Bilancia. La Bilancia, Marte nel segno, Saturno nel segno, Urano è opposto a questa bilancia, Elisabedei che fumano un pochino perché Marte è responsabile di qualche azione e reazione incontrollata da parte della Bilancia. La Bilancia che è sempre tutta così chicchere e piattino, non ci riesce a essere. Quest'estate forse quello che avrà sulla testa ce l'avrà sulla lingua, spara. E gli fa bene però, no? Aiuta il fegato. Ecco. Come no, anche se però rischia di creare qualche incidente diplomatico perché Venere è contraria, quindi il fascino proverbiale della Vergine, della Bilancia, perdon, potrebbe subire un vistoso calo, oppure alla Bilancia potrebbe scattare un po' la reazione contraria, si sente un VC a pedali e allora cerca di migliorare il proprio aspetto, magari poi ottenendo dei risultati un po' ridicoli. Quindi calma e gesso, cari Bilancia, perché questo Marte, d'accordo che vi fa un po' sclerare, ma vi fa anche cuccare. Scorpione. Lo Scorpione che vede in Venere una delle alleate più aggraziate, proprio perché transita nella casa astrologica dei viaggi, degli spostamenti, anche su lunga percorrenza. Quindi è una mano santa per vacanze e anche viaggi non soltanto di riposo, ma anche viaggi in città d'arte piuttosto che istruttivi, di studio, visto che la casa astrologica nella quale transita Venere simboleggia anche gli studi. È un'estate in cui si può riposare e rilassare. E ci si può arricchire anche. No, non nel senso economico, nel senso culturale. Sì, sì, sicuramente sì. E si può anche, come dire, preparare una sorta di strategia, di progetto ad ampio spettro da mettere in pratica poi con la ripresa autunnale, perché lo Scorpione ospiterà Saturno poi d'ottobre, poi quello magari sarà argomento di un altro nostro incontro. E Giove espande anche il raggio d'azione dal punto di vista economico, quindi lo Scorpione quest'estate può spendere perché i soldi ce li ha, quindi beato lui. Sagittario. Sagittario, vedo scettico. No, sto solo pensando, insomma, che sai. Allora, il Sagittario, che forse è un po' povero di buon umore. Giove opposto, Giove che è il pianeta dell'ottimismo, della fiducia, transita in orbita un po' e poi il suo accasciante. Pianeta, diciamo. Poi anche il suo pianeta, quindi diciamo che vedremo dei Sagittari un po' meno brillanti, un po' meno al galoppo, però c'è Marte, c'è Mercurio, c'è Urano. Corrono, ci sono tutti quindi, i pianeti che sostengono le sorti amorose, anche fornicatorie del Sagittario, che potrebbe anche decidere di punto in bianco di rottamare un partner che ormai non ha più nulla da dire, nulla da dare, e avviarsi verso nuove storie d'amore sicuramente molto appassionanti. Non si sa quanto durature, però sicuramente appassionanti. Capricorno. Il Capricorno che vede l'opposizione di Venere e la quadratura di Marte. Tradotto, che cosa vuol dire? Che le buone maniere, il fascino, il bon ton non saranno il forte del Capricorno, che già insomma non è, certo. Sembra un po' asburgico, no? Anche se poi sotto questi strati così di filo spinato noi sappiamo che il Capricorno nasconde spesso un'anima un po' pannacottosa, solo che bisogna arrivarci alla pannacotta e il Capricorno non ci fa arrivare chiunque. Quindi Capricorno un po' scontroso, un po' scorbutico, potrebbe avere da ridire del vicino di ombrellone che fa chiasso, del moscardino poco cotto al ristorante, insomma ci sono tante cose che al Capricorno non vanno tanto bene. Pertanto cercate di darvi una calmata, perché se no rischiate. L'unico, ecco, il momento migliore forse per fare le vacanze sarebbe l'ultima settimana, quando Marte passa nello Scorpione, da una mano al Capricorno, anche agli ormoni. Abbiamo solo un minuto per Acquario e Pesci. No, orrore. Allora, l'Acquario, bello Marte in trigono, bello Giove in trigono, ci sono colpi di fortuna che arrivano un po' da ogni direzione, amorosa, lavorativa, economica, dappertutto, i viaggi vanno stra bene, non deve sclerare ogni 5 minuti perché Mercurio, che è il pianeta del sistema nervoso, è contrario e quindi potrebbe l'Acquario ogni tanto dar di matto senza nessuna ragione. I Pesci, che hanno Venere a favore, i Pesci che vivono sempre imbibiti in questa glassa di sentimento, più che essere infarinati quest'estate saranno caramellati, perché il Pesci affascina, cucca, formica, non sempre con il partner legittimo, ma anche forse con delle, si diverte, insomma, su alcove extraterritoriali, e devo dire che si rifà un po' di certe amarezze recenti che insomma sono state anche abbastanza quindi pesanti. Si merita questa situazione, sì. Grazie Antonio Capitani davvero, e grazie a tutti voi, ci risentiamo domenica prossima puntare alle 10 con il riposo del guerriero in versione estiva. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. Buona settimana da Stefano Gallarini.